tutte le informazioni necessarie e poi vediamo di chi ha ragione. Io non me l'ho presa neanche calda calda, tanto non la stavo usando. E poi se entrano quelli dell'esercito e ti dicono di spostarti, ti devi spostare perché ce l'hanno loro, capito là? Se uno entra lì. Basta non entrare e non disturbare, la gente sta lavorando, capito? Prendete le informazioni al limite e poi mi fai sapere a tu. Gaffa gaffa, speriamo tutte le informazioni giuste, tutte quelle che si vogliono e poi vediamo un po' di chi ha ragione. No, perché lo sai che mi dà fastidio anche il... Cioè, se poi non è così, cioè, mi dà fastidio. Ma io penso che non sia così, ma comunque mi sembra una cosa strana, perché hanno messo in vendita tanti apparecchi di questa roba qua, cioè, è un po', hai capito, una cosa assurda. Se è così, Antu, bisogna saperlo solo la garganta ufficiale, se c'è scritto la garganta ufficiale, è così, ciao. Gaffa, buonasera, infatti noi andiamo a guardare e vediamo un po' tutta la situazione. Così l'avevamo messo sicuramente sulla gazzetta ufficiale, se no non può uscire dallo stampo pareggio. Io la dirò la credo che anche secondo me è un po' così, da patenare, perché tra me deve fare anche se ti ci passare male, se sa fare che non ho avuto il tempo, là, diciamo così, non stavo pensando a quello. Voi siete sovramodulati con Gianni, ma comunque prenderemo atto di tutto, ovvero questa cosa. Ehi, intanto io non ne stavo usando, non stavo pensando a quello, io l'ho saputo lunedì, quindi non l'ho saputo da una fonte ufficiale, quindi non posso dire niente. Cioè non sono sicuro di quello che è. A me me l'hanno riferito, come me l'hanno riferito lo sto riferendo a lui. Poi se la cosa fosse diversa prenderemo provvedimenti, vuol dire se la usiamo, se la legge dice che ci consente di usarla, la usiamo, e se no no. Poi a te, mi avevo un fatto io, un secco anche io. E non ce l'ho io pure, il portatile ce l'ho e l'PD qua, anche io non la sto usando. Non me lo sbatte nulla, però per dire, se lo puoi usare lo usi, capito? Sì, c'è un periodo che lo usavo un po' di più perché c'erano quelle scocciature e rompevano le scatole e ci andavano le piglie di tutto. Ci può servire sempre come seconda frequenza, in caso magari giri. Infatti, se lo possiamo usare, io sapevo che si potevano usare liberi 20 canali, dall'1 al 20 si poteva usare liberi, gli altri no, perché sono 80 o 60 sono i canali, non veramente, 79 mi sembra sono, però se ne potevano usare 20, dall'1 al 20 si può usare per noi libero. Perché mi hanno detto così, se ne entrano quelli dell'esercito e ti dicono di spostarti, e tu te ne devi andare, giustamente, non devi fare macello, ma io mi sposto, se... e poi non è solo usando, mi fa la rotella e scatto la gente al lavoro. Adesso vediamo, se la fanno, se poi una cosa, vediamo un po' come la situazione, se poi una cosa che sto trattando di lui sì, e dico no, qua ti devi spostare tu, ha la ragione, basta guardare del torto loro, vediamo un po' questa roba, è come te che uno biglia la domani, il 27 non si parla più, parlano le forze dell'ordine, oh. Guarda che l'esercito non senza l'autorizzazione non c'entra a parlare, no? Vuol dire che hanno l'autorizzazione senza a parlare, a titola. Vediamo un po' questa cosa, come è. E ti guardo le informazioni, se è un sito che non si può più usare, non lo usiamo più, perché non ci appartiene più. Ma la buoni, già, 939 clienti, cosa il cacchio, andiamo a buciurare. Almeno entrassero qua a parlare la gente, ma gente in gamba io dico. Ne stavamo parlando pure con Gianni poco fa. Gente che faccia ridere, insomma, che si faccia qualche discorso serio. Invece io. E ieri c'era gente, la verità. Grazie a Dio sta andando la cosa, speriamo che vada sempre avanti. Beh, speriamo di sì, perché se no uno non entra, se uno entra signori così, è fatto anni ferma che non entrava assolutamente nessuno. Ma... E più di 10 anni, no? Cappa, buonasera Luca comunque. Luca, che Luca è entrato? Io non l'ho sentito. Luca del Monte. Allora mi ha sovramodulato quel becchino. Parla. No, negativo. Non parli adesso, ma... E cappa. E via. E te posso dire, Natalia, mamma mia. Cosa vuoi? Che dica il numero di frequenza, Luca Fugioni, 26-18-26. Allora, vedi dietro. Becchino, parla con Muro adesso e mangiati un rodino di mammo. Veramente. Trovato! Hai capito? Trovato! Mia voce. Io se no la voce che dobbiamo parlare con Piero, una voce a... Ma ci ha fatto già calato, io a risa. E io quando mi sentito sulla Fuscelli, ma mi ha trovato mio padre. Scusate, mio padre e mia madre sono rientrati e mi hanno trovato a Giacarazzo di Arisa, mi hanno visto di essere impazzito. Però era tu filosofo con carta, aiuta. Poi adesso è troppo parolaccia, era da chiudere tutto quanto. Perché siete malvagati a fronte se non ne vogliamo, e tu sei incazzato. Ma le ho detto che questa cosa lo tutti. Che diavolo. E dai tu, Giavara, sta lì. Ega. Ho detto. No, era più grande di me. Era già grande quando ero un ragazzino. 52 anni. Almeno c'ha l'età tua, forse qualche annetto in più. Se sono su con il zende, come mi tende con la zia. 52 anni. No, che era un bel più grande di me, cazzo. Io parlo io a 40 anni, io mi pare una più... Sarà almeno 10 anni più grande di me. Io. No, Natalì, non è così, no. Ah, ma lei è più grande di me. E questo ne sono sicuro, fa cosa... Non può essere che vale dai mia. Io sono grande quanto il Walter, sono nato nel 57, ma lui in casa... No, ed è un bel più grande di me Falcone, va. Io mi ricordo che era 5 a 4 sì, Falcone. Ma, mi pare che ce l'hanno, Gaviera, ma madre la battesse da Emilia. Se io ero un ragazzino e lui era grande già. E che c'è la varace, cantata. No, c'è passati, no, qualche una settantina di incontro. Di Natalino, ma non di più, che mi ha detto, cioè mi ha detto proprio l'età esatta, ma adesso no, no, non me lo ricordo bene. Ma cosa vuoi? Cosa lui ti dica? A me mi sembrava più grande di me. Sì, molto molto. Natalino, anche a me, io mi ricordo che ero ragazzino e lui era già male. Infatti non è quello che ti sto dicendo. Ora più mano di me avrà qua volendo farlo più piccolo almeno 55 anni, quasi 60 ne avrà, da perché era più grande di me, io me lo ricordo che era più grande di me, l'età esatta non la so, però già era più grande di me Falcone. Magari si vedeva più grande che dipende. Non sai cos'è, ma l'attività sessuale era grande. No, no, io no. Io l'ho conosciuto di persona Falcone, la piccola. L'ho conosciuto. Conoscevo anche il padre di Falcone, io. Figura. Io lo padre, la madre, la sempre a lui. Ho saputo che no. La sorella non lo fa più uscire, no, non è come integando. Ma a me me l'ha detto che pagherebbe per vedere una persona. Ma io lo so, e come fa tu? Di Roma di andare se ha fatto la sala persona. Cosa dici, carina? Capa, ma lui vorrebbe rivedere gli amici. Purtroppo. La via che li vedi, se la dal padre della madre. Invece c'avevo quella tipo la 500, che mamma mia, fino vino. Ah, però sai, mi erano venuti i dolori alle mani. E già lo so che mi fa venire i dolori. Comunque, il 40 c'ha quel difetto che la freccia di marcia a volte si arrugginisce, lo fa marcia il motore, non ti muove un po'. Sì. Solo quello, la rimana lì mi si incendia, a trovare la batteria a dare da riserire. Ah, che c'è sicuramente? Allora mi ha messo scoppiata la batteria, per tutto l'acido addosso, mi ha dato un casino, perché si è mosso a sedere e il meccanico mi ha messo l'olio nuovo, il filtro e tutto quanto, sai che voleva l'ha chiuso con quella specie di molletta che c'ha che si aggancia, no? Poi l'ha chiuso male, si è mosso a sedere, abbiamo cacato la batteria, e che ha fatto un negativo e positivo, gli occhi è scoppiata. Allora, dimmi se la sottenni nella peccata. Beh, tu, anche in faccia mi è andato l'acido, però qua c'è stato un bidoncino di acqua, mi ha spostato subito l'acqua addosso, mi ho bagnato tutta la faccia, l'ho fatto bene, l'ho bagnato più di 2 o 3 volte, mi bruciava. Praticamente, a noi se ne sono accorto subito, ok, mi sono comparato corrente, praticamente come è successo, che ha preso un posto e si è sfondato il sedile. Sfondandosi il sedile ha toccato, come ti non mai via lo più, non c'era la protezione, ha toccato, cata, mi è giù, lo diago, ma e comunque già stava sciogliendo tutto. Quella molla del sedile doveva essere sciolto. Allora, no, si è sprofondato, se. Beh, si dice, si è fatta una molla di ferro, quando si rompe, sprofonda. E poi l'abbiamo aggiustato. Ho preso un posto, ha toccato la batteria, che sta giù, ma non si scende, non succede un patatracco. Così, succede così perché anche a me mi è successo nel 40, guarda, ti dico che... Mi è successo proprio dove c'è l'incrocio della morte di... Puro, mamma mia. Per andare a Gliadonna, nel senso di Pidriata, verso a Gliadonna. È proprio chi si incrocia. E passando l'incrocio proprio mi è successo. Canta, tutta faccia va migliata, va bruciato un gamice, i pantaloni, tutto proprio inacidito. Nessuno ti sarebbe pigliato. Vabbè, però male che camminava ancora. Se cultura da verità posso tornare, era nella mia sassa, se cultura da verità ti sei legato, che c'è cultura di macchina. Ma pure questo imbecille, cazzo, pure il meccanico, perché bisogna mettere una protezione sotto. Allora, il problema è questo qua, la protezione c'è tutto, però il sedile è spostato, si è spaccato la plastica e ha toccato, capito? E il problema è che c'è questo sedile, voleva agganciare, non so se c'è presente di quelle mollette a scatto, tipo come quelle che sono nel cofanomotore, tipo uguali a quelle del cofanomotore. Una volta che tolta il sedile, quello dove ci stavano 2 persone a fianco all'autista, c'era il cofanomotore, tolta il cofanomotore e arrivato tutto dritto dritto ai filtri e tutte queste cose qua che dovevi fare, no? E loro l'hanno tolto, però poi l'hanno ripiattato male, non sono riusciti a piattarlo bene perché c'aveva 2 agganci dietro che volevano infilati e poi infilati e bloccavano, in più davanti c'erano le mollette e l'acqua, non l'hanno chiuso bene, si è mosso, è paccato la plastica e ha toccato la batteria. Right, cioè, vabbè, in genere il positivo vuole sempre coperto anche per qualsiasi cosa, evidentemente non era coperto quello, altrimenti se avrebbe toccato cosa ne so, il negativo, insomma, non sarebbe successo niente, però adesso ce l'abbiamo coperto sotto, cioè già da a casa, è meglio che sia così, a che posso dire qualsiasi cosa, fateci, è brutto lì. Le cuffiette in gomma, cioè. Sì, sì, nell'altra ci sono, anche quella lì se non mi ricordo male, ne vuole protetto, allora manco il più, Io me non è che avevo vinto tu, non è che avevo diviso accorgimenti. Qua era un camion forte, era un motore che era invidiabile. Però era un camion di vecchia generazione. Poi era Fiat, vero? Sì, poi era Fiat, il motore. E comunque la batteria dentro è troppo pericolosa, anche per tutti gli altri. Guarda, c'è una pompetta, c'è anche, con la nuova ce l'ha. No, ma la sorte è cambiata. Molte volte si intende l'ubriaco puro. Per là? Sì. Ce lo fa male mia. È micidiale, quando c'è dei pantaloni ci sono polizzetti, che facciamo? Ha fatto tutto il ruvio. Quando sono tornato al Tuzio a portare il camion, ho preso subito la crema nibbia, me l'ho passata nella pelle. È la cosa migliore qua. Acqua le devo buttare sopra. Sì, l'acqua ce l'ho buttata. Acqua ne l'ho buttato a gogo. Perché c'è un bidone, no? Io mi porto sempre un bidone appresso per ogni eventualità, c'è un bidone da 15 litri, ma lo porto sempre appresso. E mi sono lavato più volte, mi sono bagnato, ma non bastava, mi ha arrossato la pelle. E così succede. Allora, giusto, infatti ti posso fare la batteria sotto, ma vabbè. Un giorno, se per parlare di batteria, c'è quella Alberto che si mette sull'antenna lì, dentro quel parcheggio abbiamo sentito un boato in estate, la batteria è accoppiata. E come ha fatto? Solo così? Così, e c'era caldo, era d'estate. E forse là c'era il bollito, col caldo, boom. Sì, infatti, lo succedì. Infatti su 40, cosa tutti noi ci dai più fatto con su 40, mamma mia. Io lo stesso. Io ho buttato il 242. Mamma mia, chi se lo chiede, arriva di Luigi a mandare il 242, 238. 238 era bellino. Poi avuto il fuoco, il transit, quello vecchio che bisognava mettere le lettere nel filtro dell'aria per partire, che se non partire meno al Giappone, per farlo partire. Però non partire, devi pulire le lettere, ti devi spostare perché c'è la fiamma al vicino. Chi è lì? Che cosa dell'aria? Lo spruzza per il letto. Oh, lì c'è la fiamma da lunga. Ma questa cosa di abbonare in moto per il frutto? Qui su aveva lo sportello che... lo sportello che si apriva come tirassavi, no? Era alzare, non era di quegli sportelli normali che si apriva di lato, si alzava. E ripunio un pezzo di legno, a chi aveva sembrato le fasciate, no? Parta che si alzava dove c'era via Sacri. E poi un pezzo di legno e lo incucciavo tra lo sportello e il parauto. E così non si aprivano, come andava a fare la forza c'era il legno che bloccava. Una lì che si abbassò la mia babà a negozio. Ma dice, ciao di porti, veloce, vai, veloce, veloce. E i negozi sono aspettati, se non cosa mai sta cercando, fai, dove devi andare? Quindi io parlo di dopo ne vado, tra me c'è terra. E mi ha detto, lei è come marito che si tagliano le palle per far rispetto alla moglie. E lui si impara, ma pure a fare in fretta, tu non hai messo un pezzo di legno e ne farà tutto in terra, lui si impara, carichè che addorra va. Appunto per giù qua. E sto cercando di dire, va. E io ho fatto la scia. Che bisognava riuscire. Cazzo. Ma c'è poco suo. Perché è vero. La buddhista ha avuto il 238. Il 238 che l'abbiamo, che quello lì qui si apportava c'è la scatola nostra per un guardi che si avvalato, cioè faccio parte di fare un burro che vi ha l'atto, con quella specie di canale che c'è all'atto, no? Perché c'era la discesa, poi l'atto era vuoto, no? Poi la gira rosca se non girava, ma tutto la cambio, io, la vita senza fine ce la rosca. Io c'avevo il 65 che c'aveva il servostesso andato, cioè la servostesso andata, lui è andato e si è a sinistra, mamma mia. Poi di rigata di mezzo, guarda 30 di più, cambia e tutto, ha chiccata scivolato, lì in disavvarato nella scuola del tempo, di mai gatto, buon trivolto, cambia e tutto. Dopo aspetta che cosa ho fatto, dopo di quello avevo comprato il primo Ducato color marrone, ha fatto un gusto a comprarlo così, non si capiva se era marrone, color beigeolino, là, un beige scuro. E tu vuoi ligare con i genti? Ligare sul furgone, con i piantini, una dice che dovrebbero spostare la torre perché mette la di nato. C'aveva un sistema di apertura di sportello che era vicino. Aveva questo braccio, si è spaccato, ha preso, mi è caduto. Meno male che ho fatto il tempo a metterci la mano, che se no mi faceva lavare. Una disavventura. E all'inizio avevamo un furgone un po' così, tutti i corri di tasca con la mano, tutti bucinati. Certo, ma se uno lo compare già per lo pigliavano, pure se di seconda mano. All'inizio di la cinca poi comincia a comprare un po' buono. E poi abbiamo fatto il primo Ducato nuovo, poi Ducato mi pare che abbiamo fatto 4 o 5, cioè. Certo, mi sono rimane a mano, c'ero un quinto. No. E il mio è il quinto, poi ce n'è un altro, oltre a quello lì, quello del fresco, che l'ha comprato dopo del mio. E comunque adesso sono molto migliore anche come il foglio. E non so io che si capita data che l'umidaggio sia molto stella, che ha condizionato di letto, però nel mio che ha condizionato a stella non c'è lo stella, me l'hanno regalato, l'ha condizionato perché faccio viaggi lunghi. Te, vabbè, anche io li faccio viaggi lunghi, ma già c'è le spalle grandi, si gira e se ne andata. Ancora vedo. Come mi l'ha dato il base, se l'aria condizionata, tanto posso gridare, perché lo faccio viaggi lunghi, però le ore poi le faccio lo stesso che da un po'. Così va stero, quelle casse, si sente bene tu, non è che quelli si sente a mantrata. Quelli stereo qui, l'ultimo modello, con CD, tutto qua, tutto e l'aria condizionata. Ma c'è il coso per metterlo? Per mettere cosa? Ma pure lo stereo. Io? Sì. E a volte che c'è lo già meno. Ma fa di guido, quello lo stereo che non mangio di... Non lo posso preferire, ma lui ci dovrebbe arrivare, non dico lo stile, ma almeno l'aria condizionata. E credimi, è stata critica, anche con tutti i finestrini aperti che sta rientrando. E a me posso immaginare. E i gaggi hanno il bigliare chisso. Magari. E vabbè, e cosa devo usare per fare? Mi sono fatti così. Fatti così sì, purtroppo bisogna accontentarsi. E comprerò una di quelle ventole dei marocchini e me la attacco. Papà, guarda delle buffa appagate. Ma ci sono i ventilatorini. Quelli che sto dicendo, me l'attacco, mi attacco la tappa cinesigari, tanto ne ha due, attaccaci la cinesigari. Ne ha due. Uno della cinesigari e uno a parte per attaccare tutti gli utensili, tutte le cose che uno. Capo, sei, vabbè, se non altro c'è un mezzo nuovo, un mezzo sicuro, va. Sì, quello sì. Capo, l'ho manco visto. Sta lì, qua lì l'impresso. Come? Che dietro c'ha lì l'impresso? Quando praticamente sono all'aria, se tu vuoi fare il carico più grosso, ci spruzzi l'aria dentro, c'è il manometro. termometro, guarda, a quanto le vuoi, e sali, te lo metti a livello. E gli elitessi ce li ha, il fulma ce li ha, anche gli articolati nuovi qui, li visitano le molle elitessi. E sotto il mollo negro si trova. Che banale, già lo so. Però me la somiglia la di questo lo so, funziona l'aria comunque. Sono ben duri con l'omotizzatura. Se quindi fosse il come si avesse la gomma a tavoletta, allora per buone la pedata, quanto si muove? Migliorai. Ho fatto la pedata che si bussava. Ah, cazzo, non voglio che si bussi in treno, cazzo, voglio tutta una borra. Ah, è un dito, un pezzo di treno. No, non sono andato a quello stabilimento, sto giusto nei crimini, a chi li pare, a cosa segnato. Era l'occasione che si usavano allora. Perché il sostituto del furgone, però avevano la faccia di un cane. Lo so. Sino quando mi sono andato a Urbia, un libro di 65, un signore di zona industriale, Gesù Cristo mio, lui ambiente ha tippato su Gabi. E sino quando mi ha arrecato da Gaglia, cazzo. Oggi mamma mi ha salvato la voce sul rettine, con i suoi capi. Ah, chi ci sono sempre? Carico a morte, senza freni, con la scatola dello stesso che se n'è andata per i cazzi sui, qua, meglio la morte. Ma la sta pure la comparata. Ma cosa mi so occupando la mia comparata? E già me lo ricordo quel furgone che guidavi tutti, avevo visto via Ponte Romana, ma che mi aveva detto, già lo sai dove è Ponte Romana, ci sei tanta lì, è questa qua. Finalmente, grazie a tuo gatto, sbatto tutto il tuo frate. Sì, beh, adesso ho riuscito a fare passare la revisione che c'è furgone, non va giù il mondo variato. Chissà che la circunisce anche l'uno, visto. Perché la motorizzazione gli hanno fatto passare la revisione, se era tutto pratico, come si è fatto a forza la revisione, non lo so, con un furgone del genere, e sicuri che sono ricordato a un ferroviccio, cazzo di piovia mi pioveva dentro il vano di carico e dentro la cabina mi pioveva, e la riba mi ha giubilato, nevi, freddo, tutto ha giubilato con questo furgone. Si poi era un furgone di Vingari. Gesù mio, guarda, Gesù Cristo mio, non dire il cazzo, il motore era una bomba, ma tutto l'altro non serviva. La... Sì, chi sì? Reale, dove sì? Pensa, dove sì? È basso, sì, sì, fatta pensavo che eri furto. No, da me arrivi, a sbatti 5, 6, 7, però... Un attimo che sono al computer già, riprendi tu. Perché? O no, io non sento, no. Alex, non ti sente Antonio, ti sento solo io. Già l'ho sentito io, Alessandro, però sono al computer. Anche Mattarino ti sente. Ehi, ah, facci la chiamata. Ma guarda il più. Non lo so dove, ma c'è l'antenna dentro la macchina. Oh, faccio delle prove a lasciarla dentro la macchina, per essere uscire. Dentro la macchina cosa può vincere? Oh, io lo ascoltavo, sentivo 6, 7. Cazzo, io ma ti do un po' di stazionare anche. Io non ascolto l'antenna. Cazzo, mi da fare una portata fortissima. Proviamo un po', anche Alessandro. Sì, adesso sì. Perché non è già dritta? Ma la magnetica sta già. Senti, sempre, però non tanto fuoco. Adesso che baracca la sta usando. Non tanto. Via. Sicuramente si era tappata la cosa della mente adesso. Boh, qua non arriva. Continuo a non sentirlo. Non so se lui sente a me. Attaccata allo sportello, però con l'altra tutta piegata, capito? In maniera che si appiccicasse a fare massa, ma non da vedere. Non capiamo, ma mettendo tutta la graffione di tutta la cartocca. No, non da vedere, no, cosa gli si abbassa, la si appiccica. No, devi metterla al centro, dentro che apposta, perché almeno si fa anche da scudo. Ma addirittura io ce l'avevo proprio dentro l'abitacolo, mi trovavo giù l'antenna ancora, la punta dell'antenna, capito? Tu sei pazzo e ti tirano le pietre. Insomma, di 30 onda, ma non lo devi fare quello, la portata è anche brevissima, eh. Adesso va bene, ma sei quasi si è otto, no? Che... Va bene, va bene. Funziona, ma funziona quando sei magari in macchina camminando a poca distanza, come eravamo con mio fratello domenica, una sera. Ogni cosa ci vuole la posizione sua, quello da arrivarlo, e devi va a massa pure. Ragazzi, ma non era lo stalino che tu mi ha detto, se ecco la città, che ce la sia. Cosa convivendi? Cosa conviene in casa gioco e cosa vuoi sia bene in un bar? Non io un giro di ricognizione, e dopo non è casa pure io, andiamo a fare una cosetta, e da poi tutta a casa. Salino, buonasera a tutti. Mia Cristiani, buonasera. Buonasera. Buonasera, ma sai che te la gente in macchina? Come? Tu che tu cos'è la prossima vedi che è in macchina? No, negativo, non l'ho tolta. C'ho la PLC 800 fissa. No, io l'ho messo un appunto, con tipo la tua, con una polimedica cromassa, possibile? No, negativo, io ce l'ho nera la guardia magnetica, poi ne l'ho tolta. No, sta qui è antenna con rosso, rosso e nera, con la polimedica cromassa. E sarà quella di qualche altro. Stamattina, quando sono alzato, ero così. E te ne porto dietro tutta la sera. Sì. Sì, è aumentato anche. Mi ho messo un shelter di quelli che fa passare i dolori. Mi pare che non metta niente. Ma ce lo senti? Arriva già tratto fratturato, come se mi giro, lui stava entrando un dolore, ma allucinante. Ah, ne mi senti, già nero più lungo. Ehi, ciao. Ascolta, ma io il tuo nero braccio, mi pare, ma non sta andando in fretta all'ospedale a farti vedere. Ma che braccio è? Il destro. Cosa non fa tanto, la parte del cuore, no? No, quello è sinistro, adesso. E poi se fosse stato l'allora del braccio, mi sarebbe dovuto anche al petto. No, già, comunque lo faccio con te. Ah, ma non è, non è roba di cuore, è roba sicuramente di freddo che ho preso. O uno strappo, ma non ricordo aver fatto strappo. Allora, la cattura, cioè, sono andato di lato, così è stato qualche slogatura. Dopo, dai, già, un attimo di fianco, per fare a fare un caffè e la buona per la casa. Cavale, avanti, Alessandro. Avanti, anche tu. Ciao, ciao Alessandro, quasi che c'è un po' di freddura già. Ma solo lì, strano. Dopo stanotte l'ho passato a trattare un tema, non so se te lo vedo. Non mi ha detto niente. Cos'è successo? Chi è Marco? Tanto se lo sentiti male, nausea, vomiti, va di pancia, uia. Oh mamma, influenza. Cosa si dice? Questo dolore alla spalla l'ha avuto anche mia moglie e anche l'altarino, cosa si dice roba di influenza? Molto strano, molto strano. Però avete chiamato il medico? No, ci sono andato io stamattina dal medico. Gli ho detto tutto, poi mi ha chiesto di mio padre. Abbiamo cominciato a parlare di mio padre, mi sono dimenticato di rilubrare. Non so male, io vi dico subito, ma cosa succede? Stavo male, veramente c'avevo questa nausea. Ma nausea allucinante. Guardate, anche tuo figlio è così, no? Ma è una buca lui. Marco, vedrai che vi ruba se mi No, stavo dicendo, ma anche tuo figlio è così. Marco e basta. Io e Marco. Mia figlia non c'era nemmeno quello. Ma è una buca lui. Se vi fai non fate cosa. Ma se mi sì, ah, per cosa? La vecchia carogna è a questo Gianni. Si sentiva da lontano, perché pensavo facevi in macchina. Ha bisogno anche del coso, come si chiama, quello per lo ciccia. Salvatore Barra Agricola, se ci sia. Fatta lì. italiani, etici, etici. Ma si controllano sul PC, dottori? Puoi lasciare delle frequenze. Se avvi MSN c'è già il link che ti ho mandato 45 minuti fa. Ma frequenza non è biotta, guarda. Avete parlato in due? Ho avviato quello. È stato da giugno del 2008 addirittura. Si usa l'LPD, però è stato spostato a 866 tutto lì. Si chiama sempre LPD e basta. Però è spostato a 866 mega. Bianco. Normative del ministero, io direi di sì, visto che non si possono neanche più vendere. Ah, me l'hanno detto, ma si poteva usare, vabbè, no problem. Vengono quelli a 866, tutto lì, spostate la frequenza, niente di particolare. E poi le PD sono dei walkie talkie, meno niente di particolare. Uno che vuole usare così si usa il PNR, non le PD. Ma di un rivarato, di un ma cosa non andava nei macarrucci. Andava bene, Meda. Ma lo vuoi che ti dica? Ah, sta ricordando a me, quello c'è tutto, fai prima. Ah, io già non ne sto usando più, quindi. Io no, io sto usando solamente, ma qui non facevo una massa, allora non ho più usato. Lo uso io, ma sai, c'è un'antenna sul tetto, fidati. No, ma poi non si può più usare, bisogna buttare lì e va. No, lo uso lì, lo sentivo ma c'è se lì, lo uso l'antenna sul tetto. Se guardino, sta tutto l'antenino, non è che esco. Buonasera Adriano. Buonasera Antonio. Buonasera signor Adriano. Buonasera anche a lei. Ah. Pure voglio sapere se chissà cosa è così. Antu, vai sul sito del Ministero dei Poteri e Collettazioni. Ascemento, vai e guardi, c'è tutto il piano nuovo. Da giugno 2008 è cambiato tutto. E ti conto. Vabbè, magari forse in questo momento non ce l'ha portata di mano internet, però è chiaro il tondo. Ciao. Infatti voglio andare, voglio... adesso non fa perché domani ti voglio andare a vedere cosa dici ed è così, non si può più usare, basta, finito. Tu direi auto ministero, che bello. Guardi, io una cosa, sì. Io ho proposto la concessione, sono ancora arrivata. Non ti arriva nulla. Sì, lo sono facendo, devo tenere. Sì signore. Solo il versamento. Tanto c'è scritto la casuale, perché cosa è? Capito? E non praticamente non ti arriva nessuna concessione. E gli abusivo. Non me ne è arrivata, prima ti arrivava il disciplinare, ti arrivava la concessione, no, non farebbe proprio un tutto. Quel foglio, non facevo quel foglio, anche l'ho fatto, figurati. Infatti, ma la gente fa quello sbaglio, ma basta il versamento. No, allora sono a posto, io sono tranquillo allora, adesso. Allora non ti fidi di quello che ti dico, se te lo gioco nel vento. Ma cosa c'è? Ma tu mi ti vuoi la concessione, ha fatto buuuu. Tu la stavo, sai cosa c'è? Ma che è stato CB? un conto ravvicinato del stesso tipo come l'ho fatto io. Brutuku. Uè, Cadria. E ci sei ancora. Buonasera, buonasera. Già sono ancora qua, già sono ancora qua. Non c'è problema, comunque è meglio abusivo che avere la concessione. Ha tutti i dividi che è meglio. Almeno non vengono a girare i cusi, come l'ho fatto a me per il sito, quindi siamo tutti i giorni a casa con gli ospiti, gli facciamo la, gli invitiamo la colazione, il pranzo. Allora, aspetti che sta scendendo, andiamo al bar e ci prendiamo il caffè. Quando non ho fatto la concessione ci sono poco venuti a cercarmi, anzi non porta, ogni tanto li vedo alle porte, mi saluta pure. Dice ancora Maladrino, se fa ancora peggio al solito di sposto. Facciamo. Quindi i natalini del PD non si possono utilizzare così. Signora, a me me l'hanno detto una persona che gli è arrivato il fax che non si potevano più usare. Hanno fatto spostare anche a loro più su. Quella fottitura. Tutti quelli che hanno comprato il PD a... che non ci vuole concessione, cosa ne succede? Allora anche PM è la stessa cosa. Ui ui. No, sono il PD, perché se l'ha preso l'esercito, che io sappia. Allora, l'esercito è quindi, deve essere questione di protezione civile, e quindi non si possono più usare. Meglio così, vabbè, già uscivano bene, c'è uno proprio più di macchina che non esce, chi è? Chi è che vuole entrare? Ho sentito un segnalone qua. Ah, chi ha sentito un segnalone? Oh, qua mi è arrivato il segnale a fondo scala, non so chi sia. Mi sembra a fondo scala, qui non siamo anche nato. Sarà fatta una, devi prendere. Ah, devi, no, dite se combinette. Ma, mi sto facendo una cosa difficilissima, proprio di quelle alta tecnologia. Asciugando il cellulare di mio padre con... la città da capelli che ci ha buttato la qua sopra, la carità, no comment, proprio come perdere tempo nella vita. Sto di là a me che è passato una volta il cellulare mio dentro il secchio con Scoopy, è una volta che sono andato venuto qua a pizzare, ma c'eravamo l'acqua, lo vedevamo i secchi, ha preso un cane, ha tirato il... come si chiama? Stava parlando quanto dentro la... come ho tolto fuori dentro il corso del corso cellulare, non c'erano pure due giorni, ma manco con qualcosa si è asciugato. Non penso si è buttato una cassone. Adria, me lo asciughi mio, quello che mi c'è caduto al torto quando stavo pescando. Sai che ci stavo pensando? Un paio di giorni fa ci stavo pensando. Quando andavamo a pescare, ero messo di due per sé, cosa che ho disincinato PTP e ti è scivolato il cellulare dal taschino. E vabbè, naturalmente, una cosa che capita, siamo figli, capita, certo, tenersi il cellulare nel taschino. È comodo perché si sente, però se tutti inchini un pochettino a 90 gradi, possono succedere due cose. Prima di tutto ti cade il cellulare, e l'altra cosa che ti arriva qualcosa da dietro. Infatti, se c'è qualche lingua da dietro, guadagni anche 5 centimetri. Come diceva il principale mio, vai e fatti spingere da un negro, così guadagni 5 centimetri. Ma ho reso di merda. La figlia di motosega e gli attagli quella negra. Ci piace di essere spiritoso, perché gli alitano di merda. Da quando ho conosciuto a quello non posso vedere più gli alitani. Andavo solo d'accordo con uno, ma è morto, quindi non c'è che gli alitano che valga. Ancora sta già lì, non c'è ancora sta già mia di Cagliaritano. Come? Non c'è ancora sta già di Cagliaritano io, ancora sì. Se è ancora vivo, non l'ha ancora ammazzato. Stai attento che quello cazzo è il fetto. Mi ammazzalo subito. Cazzo il fetto. Ma conto, vai che è meglio. Cazzo ancora vivo, e te la metti su cioè più di uno cadeva di pane. Poi da quando ho conosciuto quello, cazzo, non li posso più volere. Mi dà ancora 1.000 euro. Il giorno della tua passata il cazzo di castiglia giù con la macchina. Già non ci sta cadendo a Sassari, che non gli conviene. Tanto gli ho messo al tipo, 60 cilindri di carta e 86 lancette vicino al collo. Oh. Via, questa la tocca a mio padre. Sì, ma facevi prima con la roncola. Forse c'è un manco mio. Mi usilo. Siamo forse in accesa però, Cioè, da voi non ne riseghi tu guzzi? Natali. Oh, dimmi, Ari. Sì, ciao, ti ha visto, vai. No, negativo, è spento il televisore. No, se guarda, te lo... Ce l'ho in genere. Hanno pizzicato, non ci dici che rompeva le palette, i capelli di lui. Sono andato fino a casa sua, capita Ventosa. E da la mia faccia. Ma è sicuro che mi la mia volta. Ah, no, gli hanno fatto vista a casa sua, gli hanno fatto vista, figurati. Dice, aveva le palle, ci avevamo una mano, faceva la persona, ci ho falsetto. E ho chiesto, dice, fai vedere le parecchi. No, no, no, non faccio vedere niente io. Ha fatto roba di pivattone. Sì, l'ha creduto, cioè io sono senza concessione, l'ha detto. Quindi, non faccio vedere nulla. Quella è la notte che ti spetta a ridere. Adesso solo che si adesso che si sta in video già ci vanno a controllarlo. Ma non è pura, no? Per quello quando metti la portata a Falcone ti mando capita Ventosa, ti mando. Ehi mando, a me mi faccio poco a sonda. Ha capito Ventosa che quello che va sempre un altro rispetto in giro a rompere la mazza. Chi la casa sua è andata in macchina? Si è messo lì il spazio in un video, non sa pure in macchina. Mi ha chiamato subito. Tu sei di sopra. E ha fatto l'ho fatto, gli ho detto dove è Paolino? Dice Paolino sono io. Dice per cosa sai cerca con i camionisti che gli parla male? No, non ha, sono dei rompicoglioni adesso. Ma tutti senza partenza, dove cosa? Qualche giorno gli tagliano le gambe quello lì. Io non lo conosco, lui ci sconde già con l'articolandi. Quello busta dove dico io, ma la settimana quello si trova lì, capisci, se trova scoperto da sua, perché l'hanno fatto vedere anche in persona. Figurati, dice solo io Paolino. Quello è fottuto ormai, devi fare una troppo, si mettono a quattro corde, e lo tira con le cane, lo tirano, direttamente. I camionisti sono male, bisogna essere attenti. Ciao, siamo del 60, la parola di 10. Ah no. A parte che sono sempre imbenzinati. Ma questa categoria come sono l'artici di timbri a gomito, cazzo. Siamo domani uno. Tu l'Alessandro che c'ha un figlio di terrore. Dei camionisti. E i miei colleghi già dovevano l'appresso. Mi dicevano che neanche circolo frequentarlo. E io mai manco uno l'ho frequentato mai il circolo. Non mi vogliono i grilli. I grilli non li voglio dire che circolo frequentarlo. Ma vai, non bevo io. Ma chi non va a frequentare il circolo devi andare? E secondo voi, sì, secondo i colleghi miei, sì. Devo avere un circolo, ma scusa. Come te cazzo via si cose, la bensai, devi andare in circolo, Se io ci arrivi sarà per ghiero a vedere la polacca, cosa no? Ah, puttana! Cosa? Lì, non ho capito la polacca. Se ci arrivi la per ghiero a vedere la polacca, cicco, cosa no? Ma come se ci arriva anche Andrea Maricomio, ci andi proprio due. Quanto ricco di gruppo Cerusi, tutti con le puttine. E ci arrivo qualche volta perché c'eravate voi, ma no, perché frequentassi il circolo in particolare io. Allora dire che non ci sei mai andato perché salivi anche tu, salivi. Addirittura prima di salire lì, salivi i piazzini da Carlo. E non quello era un bar, non era un circolo. E poi lo sai che mi bevi un caffè e basta. Sì. Caffè, tu vedo un giro la mattina alle 8, veniva lasciata da quella del giorno e beveva birra, quell'altra qua pizza, c'era poco di casino, fino alla una, un fine di luna si è salito il tondo a casa sua. Ah, Ma con la digiuna avevo già preso la superare al cuccio. No, che prendo quella insuffiata lì. Superalcolici. Ecco, Romagna, etichetta nera, il brandy che crea l'atmosfera. E alla fine non la comprendiamo anche un video. E infatti chiama Parolio F, lo chiama Parolio F. Il semaforo. Allora, una volta col telefono non mi voleva fare telefonare, neanche a me. Mi sbucava dentro la cabina, puzzinoso. E allora, andiamo a giorno anche in Sardegna, che stavo telefonando a mio fratello a venire a pigliarmi, perché stavo facendo le commissioni lì, e mi diceva lui dal baracchino, ho fatto, appenda la cornetta, la sito è occupata. Io sentivo dalla cornetta la ragazza lui, e c'era lui cazzo ridendo. Dove sei che bisogna entrare? Allora, appena la cornetta che la tutti occupata, bastardo, e poi no, o mi fai telefono o telefono giù dalla Bassitoria, che dove arriviamo di questi telefoni cellulari che si piazzavano in macchina, quelli grandi, no, dalla nostra parola. Vedi quelli attacco fisso. Hai detto mi fai telefonare, telefono il sbaldarsi, ah ma non ti deve ballare sta, vai a mi telefonare un attimo che devo chiedere una cosa urgente, e ci andiamo a accompagni due a casa. Pronti, attacchiamo il tachira. Il passametro, cosa il tachira? Sì, vabbè, lui diceva il tachira. E io vedo, via. Passa a fare la via, dai che bisogno. Mi turbava le telecamere della banca, infatti mi diceva Maria Mano, mi ha dato un guato. Ma ne c'è ancora, di no, ti con un filo. Sei stato cattivo, eh. Ma se vuoi pure dura, hai bisotto. Mi fa sentire il fiato di bruciato. Ehi, vabbè. Quando lui era di corseggio lì, disturbava, infatti non parlava da lì perché Mario non voleva, gli disturbava le telecamere della banca, no? Lì faceva servizio dentro, faceva, era dentro la banca, quando era chiusa, infatti disturbava le telecamere. Si entrava in mia ruga, le smingue si allinearono da via nel bassino. Ah, è roba di spuria. Sarà 5,50 mi fa. Sono micidiali, soprattutto una certa altezza, guai. Allora, ma dove va che mantenne con le radialine? Attualmente qua. Tipo una cosa in miniatura, una tuba in miniatura. C'è il radialino pure nella base, è sinuso. Mi si entrava dentro il telefono della cabina telefonica, addirittura. Appenda la cornetta, la si preoccupata. Cazzo, mi chiedevo di vedere, ma chi c'è Alessandro? Cazzo, mi seguirà di vedere, mi va sì. Ma l'ha detto, mi era una scena, era. A quella di sonno era tremendo. Ma chiamavamo la quella di Gnoni. Allora, il padre Pugliare era repubblicano, Gianni repubblicano, si dirigeva il baracco con lei, attivamente. Attivamente Gianni repubblicano, già. Quando diceva, il baracco! Poi non ha più usato il baracchino, come ha avuto il tacino, non ha avuto più la passione. No, lo usava così quando... quel passito, bastardo di viviare qua, io devo andare a prendere, mi era lontano, mi dovevo avere il lineare, cazzo. E poi mi ecco già, e lì Panacco, a cui c'era il Balacco, io sono una cavaglia, sono un passito, e allora chiamava il Balacco. Bene, lo bravi, e mi ha portato avanti, lui era il tassista, chi andava a portare? Ma io mi rifugia, guarda. Beh, il palacco, molto te ne hai trombato. Cosa faceva la stazione, diciamo, fa il parcheggio per la stazione? Ehi, tutti i parcheggi l'emiciclo, la frazione, dove c'è il Banco di Sardegna, dove c'è l'hotel di Raffaele Leva, lì sono tutti partiti per Fassino. Un giorno alla settimana, ogni giorno cambiavano. Ah, gira, ma così... per forza, ogni giorno cambiano parcheggio. No, io pensavo che ci siano a gruppi fissi. No, no, non devi toccare dove andare. E poi non ci sia nella mezzo, quando si dare con i cellulari sono saltati i guai, no? Perché allora non li potevano sentire. I clienti bisogna mettere la telefonata, niente ci sia nella mezzo. Se no devi ripetere a vita, non lo sai, ma che si è quasi afferravano. E quando è definita la voglia, quella del delinquente che ti telefona con le ambulanze, dai telefoni assisti, faceva arrivare l'ambulanza dei busti. Una volta l'abbiamo sgamato da dove telefonava, abbiamo fatto il numero di Piazza Castello che l'abbiamo preso, e era risposto il tassista. Domenica lo volevo venire, no, siamo da Crocevo, così abbiamo, stiamo facendo la cosa, dice sì, sono quei delinquenti che aspettano che noi usciamo tutti e poi fate voi. Allora, mamma mia, lo devo dire sì, come suonava. Allora, ma una volta l'ho fatto intervenire a noi, che la venire invece di un po' tutti i piazzati. Ci siamo trovati come quattro guasti lì, con il sirene. Che è successo? Ah, dice che c'era un incendio. Vabbè, dai. Qualche volta potrebbe essere. Allora non so cosa ho fatto, telefonato in serie, ho detto fammi questo numero. Abbiamo fatto il numero. Ho risposto, pronto? Dice sì, siamo lui. E allora l'ho fatto da qua. E polizia ha preso lotta e già abbiamo sgamato anche come faceva. Perché non esce il numero del tassi, capito? Se esce si abitare con il numero dei tassi. Sì, ma allora non c'è altro qui, perché sono sofisticato, avevamo ancora i telefoni grigi, quindi, ma... Non è giusto, ma tu pensa, il primo cellulare l'ho preso di quelli taxi, no, il secondo era, il secondo l'ho pagato, cazzo, 1.650.000 lire, allora c'erano le lire, ed era bolletta, ma tu conto, il micro pacchi lì, cazzo, una bomba la quel toletto. E anch'io l'ho avuto. Falcos, la seconda mano, 50.000 lire mi pare, o 100.000 lire, la compagna la seconda mano, sempre a bolletta. E meglio sarebbe uguale a quello, al principale di Bastianino, tanto per intendersi, quello del bar, di Città Mercato, che lo servivo io. E me l'ho preso uguale, anche il ruolo, cioè tu ci hai incastrato, che rispondevi dalla macchina con il ruolo, c'era bellissimo quel telefono. Infatti tutti me lo invidiavano, hanno portato un sacco di soldi. Io devo andare via di una, che era il mio bagliccio. Io poi lo usavo anche per lavoro, lo usavo solo per lavoro, si può dire. Varia dei cambiare telefonici, si deve. No, quello che c'avevo io c'era lo sportellino, era fino, cazzo portava una marca di soldi. Primo che avevo io sembra con la gabbina. E anche io un Mac ho avuto come primo telefono cellulare a bolletta. Cazzo perché era maduro. E quello era buono, quello prendeva bene tutte le parti. Lo so, il Mac era buono, sì. Ti ricordo che c'era il Vabba, il primo che ha avuto era il Nokia. Io primo che ho preso si chiama Falacos. Poi una cabina telefonica. Io se no dice Motorola che si manda in mano. Ma questo era mono, pigliava dappertutto. Era ultimo come telefono. Pensa che se era meglio di 10 anni, diceva che vabbè. Cosa? Taxi. Adesso sono migliore. Ma dico allora, i DSM non servivano, non aveva capo da nessuna parte. Mentre invece il taxi prendeva tutte le parti. Beh, erano più sonde perché li hanno migliorato. Vabbè. Adesso dai. cosa grande, gli hanno cavato pure un telefonino molto più piccolo dove fa migliaia di funzioni, cioè. Hai visto la tecnologia come è andata avanti, eh? Sì, ma adesso l'iPhone adesso lo sarà avanti. Cosa? Quello è il fuoco. Sì, l'ho visto. Boh. Ma non mi piacciono tanto. Anche a me pare in barrazione. Ma è durata te batterito. Perché c'è la telefono che fanno tutto, sono computer praticamente così. Posso? Alessandro, quello iPhone, nel proprio, quello piccolo. Ci sono le pagine con le dita, non casino. Perché la pagina muove il dito. E ce la Luciano, un amico mio, ce l'ha fatto vedere un giorno. L'ha pagata €100. €100, male vicino, dal computer. Figurati. Ce l'ha fatta arrivare dalla Cina, però l'ha fatta arrivare per fare 10, lui si riprende qualcosa in più e ci guadagna, capito? Però lui l'ha pagata €100, ma l'ha messo lui €100 lo provo a ordinare. Infatti, ma se l'ha venduto mio nipote, facciamo di quelli che hanno la diritta là. Praticamente quello di Luciano. Lo scottevi e cambiava immagine. Figurati, non li sono arrivati. C'era anche il pennino per quello di mio nipote. Oltre che lo potevi usare con le dita, ma c'era anche il pennino per toccare i cosi nel campo. Problema, passava il dito e cambiava immagine. E pare che c'è anche Adriano, adesso non lasciamo andare anche Adriano. No, sto ascoltando con piacere, ci mancherebbe. È un piacere ascoltare qualche questo come si deve dire tanto. Vabbè, la panna è cambiata tu. Io questo iPhone l'ho visto da Luciano, che stavo in comune, è riuscito a trovare questo sito dove dalla Cina o dal Giappone, se non mi ricordo, devi spedirlo per €100. E ne avevo dato 5, poi ne avevo dato altri 5, si è fatto qualche soldo e poi si è venduto anche il suo perché non gli piaceva, no, perché c'era troppo barrazzone. Erano grandi però, marca non ne avevano, non erano di marca assolutamente, era una marca giapponese o cinese che sia, adesso questo non lo so, però li hanno spediti da fuori. Io l'ho visto, era carino, grazioso, però troppo grande. Per girare passava il suo lavo al dito, così taglia la pagina. Era una cosa allucinante, come lo toccava la sensibilissima. No, quello di mio nipote era piccolo, non era tanto grande come il telefono. Largo era, però non era tanto grande. Forse era più piccolo del Nokia che ci abbiamo noi già. Sì, largo, quel senso lì, se lo dietro il monitor molto grande, il display, come lo chiamano. Mi pare che ci fosse anche Cristi. Ascoltano velocemente. E fa il dolce, parla pure. Così devo dire. E se vi ti piace, dai fuoco ce l'ha. Ma poi io compro un amore. A me non mi piace, Adriano. Tu che sei tecnologico, cosa ne pensi di questo iPhone? Cosa ne penso io? Che un telefonino serve per telefonare, ho detto tutto. Però pensi come me allora? Il telefono deve essere il telefono, poi il computer sia a casa. Ma stai lì a romperti le scatole. Vabbè, ormai purtroppo la fotocamera è integrata, etc. quello te lo becchi per forza, non è necessario avere tutte queste cose, effetti speciali e cacchi vari. Il telefonino è nato per telefonare, sappiamo anche benissimo che è inutile di connettere a internet con il telefonino, perché poi sappiamo benissimo quali sono i costi con il cellulare o MTS o addirittura per DSP quali sono i costi, è un controsenso. No, però non lo uso per niente. No, anche tutto per dire serve, ti mandi qualche cosa, SMS, anche la videochiamata è bella perché. No, perché c'è il computer, lo fa col computer, perché io, mia moglie che parla con un cugino che è in Francia, è una cugina, c'ha gli zii che sono in Francia, parlano in campo silvestro e parlano pure per chat. Però per chi non avesse il computer o padeggiare è bello anche una videochiamata. La videochiamata è una cosa buona perché tratta sempre di comunicazione. È attinente alla telefonia, ci può stare bene il Bluetooth e l'infrarossi, questo per comunicare col PC e lì già ci stiamo un po' troppo allargando, allora non è più un telefonino, è diventata una periferica, diventa una periferica di archiviazione, con tanto di schede SD, memoria, SCL, e allora comprati un palmare e ti porti un palmare appresso, un telefono. Il telefono deve essere una cosa semplicissima, devi telefonare, basta, vabbè, la rubrica. Vabbè, fa anche piacere avere gli sfondi colorati, quello c'è, suonerie etc, diciamo, stiamo già esagerando perché senti certe suonerie in giro che si accappano alla pelle. Ma c'è detto uno all'ospedale, c'era mio padre, c'era una signora grande. Comandante, le ricevette, comandante, ma diciamo che sinceramente non è una cosa in più, per telefono, è probabile che prenda. Tutto bene, molti di quelli ultra sofisticati si trovi appena in zona d'ombra, e ti cade GPRS, GSM, UMT e scattare tutto quanto. E poi ci sono invece dei vecchi Nokia, per esempio io ho uno di quei Nokia 3330, anche un 3310, quelli un po' vecchiuti. Minchia, prendono da tutte le parti, me lo tengo come ricordo. E anche un Motorola di quelli, quello sportellino. Sì, 2330 ce l'ho anche io. E lo sto usando per lavoro, quello è mio, è mio personale. Tu pensa che avrò cambiato, non lo so, una ventina di telefoni, qualcosa da mia moglie, mia figlia, io e cosa. Però lui funziona anche sempre, gli altri sono più malati. Quello che è in vendita, lo sai, è già. In vendita? E c'è ancora nel corso, c'è la 330, c'è ancora nel corso, non vado. Sì, è antiquato però, come telefono, non c'è né Bluetooth né nulla. Vabbè, comunque, è un buzz, però va molto bene. Vogliamo bene, però per tutto, ce l'ho avuto anch'io, è bellissimo. L'ho avuto anch'io, il 3330 e mio moglie il 3310, però io non metto le cose, mi hanno messo la forma celeste. E non mi è caduto ancora. 3330 era te che avuto una tariffa. E naturalmente io era bianco. Cazzo, avevo messo una taschina del giubbotto pazzesca, cazzo me ne brincava, basta, anguanna. Era un telefono che era una bomba. Si è fatto il bagno. E a lui. Io cosa ti credi che sto asciugando adesso? Ho detto, mio padre in due settimane ha preso e ci ha fatto la doccia con l'acqua, è roba che ce l'ho 8 anni quel telefono lì, lui l'ha fatto fuori in due settimane. Mi rode perché era perfetto, nonostante l'età, aveva la batteria, l'avevo comprata neanche un anno. La batteria te la subito via. Com'è? Già? Subito la batteria tu. Sì, a me non è stato detto, quindi sicuramente magari l'ha anche acceso, comunque si è cancellato il firmware, la famosa interfaccia JAF e ricaricargli tutto quanto il firmware, non ne vale la pena. Sta 3.10, e Nokia? Invece non l'ha compresa. si è chinata, ha preso lo straccio per lavare un pezzo che la signora ha sporcato con una bottiglia di acqua, con la Coca-Cola, lì che ho detto era schizzato tutto qua, ha fatto un casino, la si è chinata, ha preso sì, più che ora, la si è chinata per bagnare lo straccio, c'è che non è stato così, che lui si doveva regalare, ti manco una grida prima, non li abbia in due safari. Cose che erano un po' esterne, no, io sono rimasto male perché avevo dato 15 giorni fa, ce l'avevo così per collezione, 33-10, perché caspita, non ha mai preso un colpo, una bomba, poi c'è una idea programmabile, te lo scrivi tu, non so se te lo ricordi, ma ti puoi anche scrivere tu le suonerie, sono di quei gioiellini antichi, non fanno niente ma fanno tutto. Sì, c'era il compositore, c'era. E avevo fatto la sirena dell'ambulanza io. Sì, infatti, vorrei un po' che io fatevo, avevo fatto la suoneria lì, l'avevo composta lì e l'ho registrata sul mio telefono, quello che uso adesso, quello moderno. L'ho fatta suonare la prova, me l'ho registrata a volume alto, con un po' di eco e spacca la testa. Gli uccellini, per il compositore c'era solo quello, non mi sono fatti 33-10, 33-30, c'era un compositore. Così per negozio, dopo un mese e mezzo si è fermo. portarle un'assistenza, Motorola, ma non è di quelli semplicissimi. Ma per fortuna l'hanno messa a posto, non ha più fatto niente. Sì, ma Motorola si rovina gli display, si rovina un bel roba. Dici che un tempo rifatti animone, ma va, a me non mi sono mai piaciuto, sinceramente, mi piaceva meno. Capo, no, manco io non ne ho, ne abbiamo avuto solo uno di Motorola, ma lascia perdere. Ci ho avuto il Sager, ci abbiamo avuto un po' tutti i suoni Ericsson, ma la sapessi. Signori, io vi saluto, che me ne vado a letto. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte a te. Buonanotte, fai sogni d'oro. Buonanotte, ci sentiamo al prossimo domani. Ciao ciao, guarda Adriano. Adriano non c'è. Facciamo qualche cosa. Chi è rimasto? Sono rimasto io. Tu cosa c'hai? C'è un salato pagato, 29,90 a Conforama. Ah, senti. Non ce la faccio, no, dopo se la bere, ragazzi. Però se si scarica la batteria non la trovi più. La batteria mi dura una settimana e mezzo scarica. Capo, se te lo devi cambiare la batteria, non la trovi più, invece se tu vai a comprare un Nokia la trovi più. Non so, mi faccio un telefono, faccio prima. Non c'è vero, tanto con 29 euro mi sono comprati di batteria, appunto, scusa. Ci sono gli spagnoli, dietro mi armano della scorsia la Sardegna, adelante mi armano della scorsia la Sardegna, ma non fa vita di me. Tu sei ammazzato. Sì. E se no, quindi Alcatel, ma mi ce l'hai? Alcatel, non lo sai. Ne ho uno che si chiama appena 9 anni, e funziona ancora. Lì andavo benino, No, ne ho una che ha 8 anni e va benissimo, ma l'altro mio padre era piccolissimo però. C'è una serie che erano riusciti bene. Cosa tu io? Cosa faccio io? Ho fatto 129.000 lire e tempo. Vabbè, un bel vecchio. No, la batteria dura ancora una settimana, sono solo di 8 anni. Io sarò fissato, io come carico la batteria c'ho un po', praticamente cosa faccio? A me mi dura una settimana, l'ho caricato quando l'altra volta a sabato se ne parlerà, non so quanto ti duri a te già, cioè lo prendo e lo spengo quando lo carico. No, a me mi dura... Mi dura che una settimana e mezzo, due settimane, carico così. E lo uso, perché lo uso. Però già mi dura un po' adesso. Sì, ma poi piano piano fa calare. Sì, poca roba. No, ma anche le batterie sono efficienti. Allora, Nokia, c'ha un coso dietro, un codice, che ti dice se la batteria è originale. Non so, sì. Già lo so, io adesso ne ho uno per dire dove lavoro che è tutto sfasciato il telefono e la batteria quella la mia. La sigla giusta. Non l'ho controllata, è uguale si vede. Alcuni rimaneva appena più grossa e cambiava la sigla. Sì, ma in genere sono quasi tutte uguali. Oh, non è riuscita la batteria, ragazzi. Ma quel problema là lo fa ancora. Quale? Quello che dice che ti si cancellavano i numeri. Ma adesso sto riprovando a ripristinare tutti i numeri della serie, perché a volte andava a telefonare uno, ero convinto di avere il numero, poi andava a cercare e non c'era. Allora meglio tutti quanti di scritto. Va bene. Capo, aspetta, stavo parlando un attimo già. Capo, stavo parlando. A me non me ne ha mai fatto quella roba comunque. A me me l'ha fatto due volte. però non capisco se qualcuno ci ha messo un bambino. Forse, anche no, non ne a me né a Babbo, manca Natalia, non credo, non ne ha mai fatto di queste cose. E che basta poco mi cancellare la lista. Ma non è uno 91, un bel me ne manca, manca Antonio Pirocca, quel mio amico. Mi manca gente del Ciso, mi manca gente CB. Insomma, me ne manca un bel. Che cazzo, sicuramente qualcuno che il Cabutelli magari non lo conosce, ha cancellato tutto. Non è che si accapparì io. Raga. Filandra. Può darsi. Perché se no, se uno non lo conosce, com'è? Cioè, basta poco mi cancella la lista. È troppo tu vedi. Non lo so. Minare. Ci mette a uno poi tutti insieme. E lo so come. Certo. Bisogna farli solletti, ci puoi fare dire la verità. E dove prendiamo la macchina? Facile. Perché sentito? E poi si dice che stai ascoltando, vero Marco? Non ne sai niente. Ciao, Antonio. Ciao, Coccolino. Ti voglio tanto bene, non pronunciare male il mio nome. Ok, va bene. Anche io ti voglio bene. Che hai inteso? Io Antonio. Tu hai già sino a recivine. Io sono in cuffia. E lui è vicino, no? Ascoltone lui, piccolino. Allora. Ascoltare, ascoltare fa bene. Ma sai cosa hai detto? Non chiamare piccolino che sono grande io. Ah. Ancora è piccolo, bravo, poverino. Ha già 48 anni, quindi non mi chiamare piccolino, perché sono grandissimo. Ma rispetto a me, io ne ho più, molto più di te. Hai ragione, non ho compiuto 47 anni, però sì, cioè 8 anni, però ti sta arrivando. Io ne ho 24. Ma è vecchio. Qualche annetto mi esce la barba bianca, i capelli bianchi. Però Bombolo è ancora più grande di te. Anche Cristian, sono tutti più grandi di te, papà. Tutti della frequenza CP sono più grandi di te. No, veramente Babbo Duglio è più grande di tutti al momento qua. Oh, vedi più male di me? C'è pure quel Natalino, facci niente. Te non mi dici più tre anni. Giulio sono di noi. Un momento che ci sono solo due, se più umano sei tu. Vabbè, io sono il babbo della frequenza. Io sono il figlio. Figlio più grande. Grazie. In questo momento. Io sono piccolino. Papà. Non mi pare che i più minori sono voi o meno. Ma non ce n'è, cioè, più piccoli della mia età no, non ce n'è. Io a te tengo 10 anni, su qua giù. Papà. Ma che dici, mi sei più vicino di là. Di 9 anni, sono più vecchio. Guarda, mi ricordo che una persona qua, il massimo che aveva mi sembra 26 anni, o 27, adesso non me lo ricordo bene. Uno dei più giovani, adesso un po' che non entra. Quello più giovane di tutti, dai, al momento sono buio. Sei contenta? Vai. Marulino è il più giovane. Eia. Cazzo! Almeno il cortile è più giovane che entra in un barattino, eh? imparata, dai. Adesso mi si dà le parole a memoria e poi la canta. Gaffa. Ancora già andava. Perché problemi create, no? Pure io, quando accendo, sai chi c'ha la piccia? Abbassa che non vedo la televisione. Cosa? Vi siete sovramodulati con Cristian, cosa hai detto Alessandro? Praticamente anche a me a casa, no, mi succede che quando accendo, se ho quella la ferramenta accesa, c'è mia madre che subito non entra, pensa però, guardando tutto, che sta scritto, non è venuta la... anche, come si dice, anche quello digitale terrestre fa problemi, capito? No, è qua perché in una certa ora sono addormentata la vecchia, quindi devo spegnere, ma ancora già posso andare ancora un po' là. Ma quello che non riesco a capire, che dicevano che stare già, non provoca, ma da trovare il problema. Tira nel capo della... Allora, praticamente prima si usava digitale la cosa, le... basta, il culo. Il capo dell'analogico normale, tirane quello. Dove? Cioè, adesso non so Google nessuno, non ho capito cosa mi hai detto. Ho detto, tu quando prima usavi l'analogico, ovvero... Adesso usi solo il digitale perché l'analogico non c'è più. A molti, cosa succede? Lasciavano, cioè, come io l'ho tolto stesso, perché ho le palle piene. C'era quel cavo bianco, cioè, quel cavo nero, dai, che si attaccava alla televisione per farlo andare normale. Se c'è quello lì attaccato, tu prova a tirarne quello e poi prova a modulare. Ma così? Cioè, allora, ho capito cosa stai dicendo, dalla televisione devo staccare quello lì e lasciare solo la presa a scarpe. Papa, la presa a scarpe con quel filo dell'antenna normale attaccato, tanto non te ne fa niente di quel capo. E tu da voi prova a modulare, avessi disturbo. Adesso te la dico tutta. Praticamente io ho la televisione in camera mia, con quell'affare lì attaccato come stai dicendo tu, mentre quella di cucina c'ha solo il cavo attaccato direttamente perché non ha bisogno del digitale. E lì gli fa questo difetto, si richiude la televisione. Ma cosa c'è? Il cavo attaccato c'è lì? E quello, oltre a quello dell'antenna, c'è dall'altra parte, mi hai capito? Quello dell'analogico. Cappa, sì, nella mia televisione, ma è tutto connesso, tu immaginati un amplificatore di segnale, no? Ecco, attaccato alla spina dell'elettrico e in più dopo ci vanno l'ingresso dell'antenna principale e poi quattro uscite che vanno collegate alle TV. Ecco, nella mia c'è quello a fare collegato, in cucina praticamente non ce n'è neanche perché praticamente è tutta la televisione, c'è il digitale incorporato, tutte storie, e ci ha attaccato direttamente quel cavo lì e li fa quel difetto. Certo, no, ma quello lì non c'entra niente, quindi non è quella là. Ma non mi dire che c'è l'amplificatore di antenna, no? Che ti starò sto dicendo che gli ho messo l'amplificatore, ma lo sai perché? Perché ci abbiamo un po' di televisione attaccate, quindi un'antenna sola non riesce a alimentare tutte quelle televisioni. E allora cosa ho fatto? Ho messo un amplificatore di segnale con quattro uscite. Ecco, tutte le quattro uscite tre uscite solo sto occupando, in effetti, una in cucina, una in camera mia e una in camera di mia madre. E funzionano benissimo, non danno nessun problema, basta che tu non stacchi la spina, se stacchi la spina non vedi niente. A me adesso è così, purtroppo, facciamo anch'io, sono per portare l'antenna. Non fai così, non vedo niente. Amplificatore di antenna. Ma guarda che l'ho preso da un gurgugnau io, senza andare lontano, l'ho pagato 5 euro. È quello che sta disturbando, ti dà problemi sicuramente, è maledetto. può darsi che sia anche quello. Che, infatti ho provato a attaccare la spina quando sto modulando e non si sono lamentati. Quindi a Giulia compreso, e forse può anche essere quello lì, l'amplificatore di segnale che sta dando tocchi strani. Tu metti, bastava metterla normale l'antenna, tanto non sei in asso, mettevi uno spartitore, mettevi e lo facevi andare così, io dovevo farmi la televisione attaccata, eppure l'impianto mio è normale, l'antenna io non laggio le macchine tra gabbisciuglia, e vedo benissimo, c'è lo spartitore, c'è che spartisce una scatoletta in tutte le televisioni e andava e non viene un amplificatore. E io ti ho capito, mio bubolo, in effetti c'ho anche io quello lì, è solo che adesso ormai ho aperto un attimino le strade, ho capito, io ce l'ho sotto al culo lì, quando sto modulando ce l'ho proprio lì vicino questo amplificatore di segnale, si è pigliando tutti gli zembati di noi, e io mi sa che non lo devo togliere da lì. Io micidiale, è micidiale l'amplificatore dell'antenna, di Nibiglia, infatti, il cibo non è manco trattato, è micidiale, capo, prende le spure che è una cosa micidiale, è quello che ti sta rompendo le palle. Sicuramente, non so cosa faccio, compro qualcosa senza essere alimentata, ma chissà che non bravo da qualche, come si chiama, quella fare che diffusore di segnale, boh, che ne so, avanti da cosa mi informo, alla GBC vedo un po' se vendono qualcosa del genere. Perché secondo me dipende tutto da lì. Cavolo, a sale volte che voglio entrare a parlare, come clicco la portante per la vice, cazzo, no, non è possibile, non posso manco. Ma le volte mi ferma che quello, perché non sto entrando, ragazzi. Giù provo a metterci uno spartitore, tanto non è necessario l'amplificatore, uno spartitore normalissimo, non è difficile, guarda, il problema lo dovrete risolvere. Adesso ci provo, cavolo, non posso stare pagando la cosa bannuta, perché sto pagando per parlare qua, cioè come, io penso come tu e come tutti gli altri qua, stiamo pagando le tasse, cazzo, per parlare e non puoi entrare in manca favilità a parosa, pari gattardi che mi dice, mi stai disturbando la televisione qua e là, che da poi ha già compreso parosa. Paghissimo, proprio paghissimo motivo, di là giù sotto a rubare a chino che sono cose. Dovresti provare qua, non ti dico palle, mi gianni la vista l'antenna dove ce l'ho io. Ho trovato il televisore ghibli, l'antenna di rubare a chino ghibli, eppure no, non ne posso io ridere. Chi vuoi non ne faccio. Così, bisogna cercare di... Al limite mi cullata parecchio, mi intendiamo la voce che era troppo potente. Basta, cioè, devi cercare di comunque c'è il sistema per eliminarlo. Cioè, devi cercare di eliminare il amplificatore. Quale apparecchio troppo potente? Ma quello che ti aveva regalato Natalia? Quello là, quello è potente, è molto potente come modulazione, per quello che entra sto usando l'altro grande, il più tranquillo. Questo è micidiale, questa è una potenza allucinante. Tanto voi sto facendo affili a meno, ma io fammi un freddo, non esagerare. No, quello lì rimane lì. No, quello non lo do, quello lì mi serve come secondo apparecchio. Se chi ci anda male cosa può? Ah, io che tu lo procuri un apparecchio, non c'è problema. Dammelo quello lì che mi serve. No, Alessandro, no. Serve a me perché è troppo buono. Lo so, perché io ho i pizzi per farlo diventare ancora meglio, capito? Quando decidi me lo dici quanto vuoi, non esagerare, fammi sapere, io. No, al momento non ne do, no, non lo do. Non lo do perché lui me ne pensa, no. Non ti dice che non pensa. se ti devo un braccio, no? Male che ne hai tu di apparecchi belli, mannaggia. Io procuramene uno, Bobboli, serio. Procuriamo uno. Pagava, sempre che cazzo, non esagerando con i prezzi. O se no, se a meno che non ti serve quell'antenna famosa che c'ho, facciamo un cambio a cambio, ma si deve avere lo stesso valore. Raggio lampante ai ghibli. Ma che cosa? Ma forse non hai capito quale sto dicendo io, eh? Ah, ah no, veramente, qua. Non lo do. Se serve a me, serve a me come secondo apparecchio. Pagava. Vabbè, dai. Aspetta che adesso chiudo la macchina e salgo a casa, magari rientro lì, mi mangio un mosso, anche se ho tutte le radiche, non riesco a mangiare, ma anche io faccio il fuoco a moriato. Vabbè, dai, già ci sentiamo fra un attimino che rientro da casa. Ciao, adesso io sono già in chiusura anche, vabbè. Vabbè, dai, ciao, ciao. Ciao Alessandro, ci sentiamo. Quanti Gianni? Anche in chiusura. All'anima, arrivate degli anni a Londra, a Londra? Perché poi qua non posso più parlare. Vabbè, ma è l'ora migliore di modulare, cazzo, e voi me ne andete. Mica siete una scena, me. Vabbè, dai. È una scena, non dipende da me. Io ero stato pensamento alle domande a Manzano. Però purtroppo qua... sono le regole da rispettare. Vabbè, dai, se ci sei, pratichiamo, dai, non c'è nessun problema. Adesso salgo a casa e magari parlo da lì, se per qualcuno. Adesso chiamata al limite. Papà. Sì. Ma su cosa c'è poi? Cristian. Meglio? Va, ma Gianni non c'è più, lì se si è dormito. No, sicuramente, Gianni, addormentato, sì. Grande. Allucinante, mi sono svegliato. così, forse mi sono addormentato di un lato, il peso sul braccio, oh, non lo so che cosa sia. No, ho messo il braccio, ho messo un po' di fianco, ha fatto su un fianco, ma c'è quel capo sopra, ma fa anche a me per ogni volta. Mi fa male come se fosse fratturato, ci pensi, quando mi giro no, posso stare girato. Io ti capisco, la mia faccia l'ho avuto io, oltre alla spalla a pezzi, no? Io sono a pezzetti, mi si può dire. Se ho messo questo cerotto qua, mi sta facendo il capo, adesso mi faccio passare il braccio nella mia moglie. Troppo mi fa male. Io non so il braccio nessuno, quando ti fa male, ti chiudo, non fanno quasi niente, non ti credo. Ma mia moglie l'hanno fatto bene, la sera. E dipende dal fisico a fisico, anche... Ha fatto bene due volte nel disegno, prima di schiena, a me non ha avuto a prendere dura, ha avuto a prendere antifiammatori con cortisone, fa bene quel dolore. Io non è cortisone, ti gonfi, ha abbassato la muscola di svolta e ti fa bene. Non mi fa nulla, già come fatto, non copre il ceccio. Benedizione, barone. Vabbè, non devi pretendere che dalla prima ti faccia bene, però... Abbiamo fatto 15, ma ho fatto 15, non ho fatto niente. E quindi cosa hai preso? La tosina nei muscoli. Questi secondo me sono gli strappi che faccio lavorando, tirando la roba, ragazzi. Mamma mia. Mi ha sfogato le facce. A me tra ascolti del tu, ascolti le faccio io lavorando, diciamo io lavorando, da sacchicciamento, perché ti da 30, travi di ferro pesantissime, tu con il trasfallet, con pedale, diciamo io con gli sfrutti, non ti credere. E anche col carrello con le scale. Diciamo io con gli sfrutti, i pesi prendi molto più giusto che io. E io tiro pure, capito? Oltre che prendere il peso, lo tiro anche su. Quello che ne gente la schiena, le spalle soprattutto. E infatti la parte che si può, lo sai qual è? Sopra la scala. La spalla sicuramente è la destra, vero? La spalla così più, la spalla destra, logicamente. Non c'è più di cui tiro. Ascolti tu la spalla destra che la sinistra. Probabilmente sì. Ma ho fatto qualche strappi, perché noi abbiamo un braccio più forte dell'altro e chi è destro si prende dietro con chi c'è più forte, come io e tu, sempre con l'estero, è questa abitudine. No, io più forte a sinistra. E invece io carico sulla sinistra e invece è così che mi prende più forte il braccio. No, io a sinistra più forte. Anche perché adesso ho avuto la parisi, quindi non ho molta forza. Mi sembra di più il destro del braccio, fortunatamente il destro, pure se la spalla messa male, ma però il destro uso lo stesso attrappato, ma ormai non c'è niente da fare. Poi ho avuto la parisi ostetrica, quindi la forza è tutta sopra a sinistra. Probabilmente il destro mi risente anche facendo quel piccolo sforzo, mi risente, capito? Ti lasciano il fatti fare la depuntura tipo muscoli anche. Guarda, io adesso vedo. Sì, ma domani la dottoressa, non vado domani. Come faccio a dare così? Insomma, la cosa che ti fai dare fatti dei muscoli, se ce li hanno, eh? Ah, sì. E ci sono fatti dei muscoli là. Io ho sempre fatto l'inizio, mi schiaffo con l'uomo. C'è anche la parte dei muscoli, la fidati. Da te sono una cosa muscolare più che altro, non è dolore. Sì, ma io infatti c'è la fascia muscolare. Praticamente devi prendere la fascia muscolare che c'è dietro la schiena. Arriva sino alla scapola, tutta la parte della scapola più giù e poi tutto il braccio. Ah, ci vuole muscoli per forza. Se una pastiglia c'è anche un muscolo, lo sai. Cioè in pastiglie, anche in pastiglie c'è. Perché mio padre mi ha preso in pastiglia nella farmacia. Adesso guarda la sotto. Ah, è buono, siamo di freddo, sono un pallettone, però questa non vedo chi sfola. Grazie, corto. Maschio. Se no sarebbe un buon piatto. Io l'ho fatto un po' di nuovo e c'è anche la pasta normale, tipo carbonara, fatto mi piace. Ma la carbonara è modificata, io lo so, parte di scherza. Come la fa? Se faccio il frigo, la cinghia, la faccio subito la pancetta. E poi per la cipolla la metto pure il vino bianco e la faccio finire sul friggere bene. La cipolla è vino? Esatto, perché il vino toglie quella la cinta della cipolla, rende la pancetta sia croccante ma morbida, capito? Ma è fatta così, io la faccio sul friggere normalmente, poi sbatto due uova, la... e poi li metto la pancetta. A me mi ha detto un cuoco proprio, mi ha detto, la carbonara si fa con la pancetta, con la pancia friggere, mi metti un vino bianco, la rende morbida, cioè cotta bene e morbida, e poi fanno saltare la pasta, nella pancetta e lo sciolgo sopra. Anche io faccio così. Con il vino bianco esce ancora più buona. A me la mia, a me piace, la cosa tanta gente le piace. Posso provare, non lo so però se la rovino. No, mi ho andato a fare evaporare bene, rimane quel sughettino buono particolare, un po' diverso. Ma poi uguale come la cascata per la carbonara. No, perché già te lo intendo, vino e cipolla, le dà sapore per il coniglio alla cacciatore. Tu ci provo, lo metti, metti solo il vino. Vabbè. Per fare cipolla, la tappa bene, metto solo il vino, metto io. Perché se devi mettere la cipolla, le dà sapore del coniglio alla cacciatore. Ah, tu metti un cucino di vino bianco e basta, la faccia non soffrigge. Esce ancora più buona. Buona. No, ma non è la risposta. Ma non ti diciamo che se mi si spammare nel campo di pomata, se no mi impattisco al dolore. Ci sentiamo, buonanotte, ci sentiamo domani. Io già buonanotte, e poi fate vedere al medico, guarda che è meglio. E beh ragazzacci, tutti spariti siamo.